quando si sta. O magari boh, sembra così anche perché c'è il fatto di trovare baracchino e computer. Però pare trovato tipo un balcone. Le risa di dirlo è bastardo. Il computer è ben franco, domani mattina me lo porto. Portatile la verità c'è a vista e non lo do. Io voglio l'altro. Ah, non l'ho vista. L'altro XP. Io uso XP infatti, l'altro c'è XP. Ho usato anche vista, ma è una rottura di palle. Ogni tanto si ferma, ti chiede, sì, no, qua, là. Oh Gianni. Eia. E programmi tipo pinnacolo, cioè. Che cosa? Pinnacolo. No, pinnacolo lo usava mia moglie un periodo. Altro genere. Cosa? Come scegli? Questo è un altro genere. No, non è chiaro, aspetta, scusami. Ho detto, un altro genere, non hai altro genere. Altro genere? Ne uso tanti di programmi, ma uso specialmente Winmix. No, non lo conosco. Ma lo riserve per fare filmini o cose. Cioè, tuo figlio sta parlando di te, sente più di te, per quello che ti scelta male. Le sta finendo, quindi lui ci vuole mettere sopra. No, ma per fare filmini, fotografie, balle volare, capito? Ah, poi nel computer nuovo che ho comprato c'è un programma di fotografia e di telecamera che è una cosa micidiale, bellissimo. Puoi fare fritti, puoi fare praticamente a te. Al centro e le fotografie tu stesso che ti girano attorno tipo cornice, vabbè. Vabbè, ma non ce l'hai quel programma, ce l'hai già installato. No, questo programma qui era già inserito nel Vista, capito? In quello dove c'è il Vista. Ma a me Vista non mi piace e quindi il portatile che ho preso lo lascio. Cioè lo sto usando adesso perché c'è l'altro che lo stava riformattando, quindi lasciate quello da parte e ho preso quel portatile nuovo che abbiamo comprato, ma non mi piace assai come programma, mi piace più XP. Che adesso lo porto un po' in giro questo monellaccio che vuole girare per la casa, sono contento. Sentiamo, va. Bella linguetta messo, vabbè, ci sentiamo, stiamo bidere e allo sentire. Oh, ho preso un pesce allucinante, ti si fa prendere in mano, si fa carezzare, se viene a casa te lo faccio vedere. Di che razza? Non è di quelli che ho dato io? No, si chiama pesce foglia, pesce foglia. Va nel fondo, pulisce il fondo, se entra sotto la sabbia, pulisce tutto, è un pesce un po' strano. Tu lo prendi in mano, resta fermo, si fa carezzare. Lo sai che hanno aperto un negozio nuovo, sì? Allora, i punti? No, a fianco a Giulio, Giulio il falegname, lo sai dove? Sì. È a fianco, si chiama l'Arca. Vai a visitarlo, c'è roba bellina, mi sono comprato due gamberi quelli grandi, insomma ci ho speso 60 euro, mia moglie ha visto lo sconto della busta e ha detto 60 euro! Ma vabbè, il mio figlio vuole disegnare, insomma non mi lascia in pace, mi sta entrando di terrorista. Vai, ciao piccoli, ciao, vai a giocare con babbo, vai. Ciao, ci sentiamo. Lu. Ciao. Male? Andai male? Sono vabbè, dici che vado a farmi un bel bagnetto. Non la giù. Oh, non la giù, cane, perché se vedo la Puglia, non, ma me lo faccio perché ero tutto il giorno con gli stivali di gomma. Quindi, perché me lo faccio, un bel bagnetto. Grazie. Sentiamo dopo. Non c'è problema, se ti tardi faccio un bel latte, tazza, un bel tazzo del latte caldo, quello da pastiglia. Se ci sentiamo, Cava, cava, ciao, dopo cena ci sentiamo, ci vediamo, ciao. Se ti trovano tieni bisogno tutta la roba che pescato, l'acqua nella pesca, attrezzatura, e ti mettono multe esorbitanti, 1200 euro di multa, a partire da 1200 euro. Arriva che 1200 euro va a pigliare 4 pesciarini. Ma sai che oggi ho visto una cosa allucinante, per questo qui col gommone non se n'è nemmeno sceso, praticamente ha accelerato e è arrivato sino alla Spezia col gommone. Accelerato, è sceso sopra la spiaggia. Non lo sapevo. E poi per tirare il gommone dalla spiaggia al carrello, sai cosa hanno usato? Hanno attaccato la macchina, l'hanno fatto correre sino al carrello. No, arrivati poi al carrello, gli ha attaccato il vericello con la cosa, con la manovella, l'ha girato e l'ha fatto salire su. Cosa più assurda che questo vecchio è entrato in acqua, si è fatto un bagno, ma una nuotata allucinante, non lo vedevamo più, fatti la cittadina, ma sarà negato, non può, si vede a Bibbia, e si vede in casino, ho detto. Sì, anche quello lì l'ha fatto così. A parte vabbè che col gommone non si potrebbe più entrare in spiaggia, si tacciappa già a fare i due. Bisogna scenderlo dalla discesa del porto e poi risalirlo da lì. Si rovina così. Perché poi la sabbia graffia e consuma, eh. Chi era? Che è avanti? Dove si doveva fare solo la battutina? La verità è la prima volta che lo vedo, infatti Angelo siamo rimasti così. Quello che ti stavo dicendo io, se non ce la fanno in tempo a sollevare il motore, tocca la sabbia e fate un casino. All'ultimo lo tirano su, no, l'accelerate e poi lo tirano su. Vabbè, certo, se entrare lì ricade buio il casino, ciao Giovanni. Buonasera anche a lei, visto che vuoi mantenere distanza. No, a pescare non stai Giovanni. Cava. No, io sono andato, non sta mangiando nulla. Ho preso due mormorette. L'altro giorno sì, ho pescato la bella mormora e altre tre discrete, 250 grammi, quella grande era sugli 800, 700-800 grammi. Ma sono andato per due volte, adesso non mangia. Sono andato al presidio militare, poi sono andato al secondo pettine e poi siamo andati alla torretta. Non mangiava, Giovanni, ti sto dicendo che non mangiava, mormorette, le mormorette si attaccava. No, negativo, non ci sono mai andato a casa stata a pescare, una volta al molo e basta, qua c'erano i barracude e non avevi pigliato nulla. Di solito vanno alla fine del molo, lì, di fronte a quella Madonna, cosa sia, quella statua che c'è, buh. Buonasera. Poi, Vagava, ciao Antu, allora, sto bene. Sto bene. Vagava. Andava bene. Abbiamo ripreso. Vabbè. Comunque, dirò che mi sono riportato i vermi a casa, Giovanni. Non ho sprecato nulla. Il verme rimane qua bagno e si è fatto caro. Ciò che mi prude è che ho speso un mese di soldi per i vermi, che adesso ci devo ritornare per forza, perché non li voglio buttare su. Lo so. Già lo so, sì. Ma galleggiati non ho mai pescato. Mi piace più la pesca a fondo, Giovanni. Sono fatto così. Io faccio self-casting, o vado dalla Ruccia, dipende. Però mi piace più self-casting perché mi piace lanciare. E vabbè, tu c'è il gommone, bisogna, quando c'è il gommone, cioè è bello. Ma il motore è tornato, te l'avevo. E allora, fra poco lo metti a muglia. Tu te l'hai fatto? Vabbè, se ti arrangi, fai bene. Se ti arrangi, me la farò tu. Però, certo. Se la arrangi. C'è Antonio. Non mi butti a me, no. Quando mangia roba consistente. Con un asma. È proprio, diciamo, un'abitudine mangiare bene, c'è poco da fare. Non tu. Però, da Giammanno, quando non so più la moda. Quando nei frasi, ma è frutta che mangi. Consigliato ci va quell'ora. No, ehi, aggiungo, ciao, buon Corix. Oh, altro ho detto, avete consigliato ci va quell'ora lì. Sta arrivando anche quell'influenza che è un bel feo. Mal di gola, raffreddore, di tutto miglia. Via. Vabbè. Ma già vuoi va. Adesso preghiamo di la salute. Devi andare avanti. No. Vabbè. Non sto pinacciando, sto dicendo che c'è la novità che al televisore che sta arrivando questa influenza che è brutta. E io già pompa. La voce di Antonio ha quell'apparecchio. Ti rende. Rende bene. Comunque anche il microfono normale è bello, mi piace. Si sente molto bene. E ma vanno bene. La Fayette è quello lì. E dove c'è? Sul Milan. Amico di Mohamed Ali. Io non la giudico più, brava, già la giudico qui. Che cagnara, sbagliando si impara, digliela. Oh, però c'è freddo. Ma te ne esci, per favore, devi lavorare, no? Da Girino mi ha detto che quando arrivo a Targhero non si è dato per vinto, è andato a pescare e ha fatto tutto a parmare la canna, che dice che due fulmini, ha cominciato a drumare, a fare acqua, dice, guarda, una cosa allucinante. Beh, quando lui si è in macchina non è che fin fondo. Come te la gioca? Voglio disvagarti un po' così. E quando è così il tempo non si manco pure. Ma noi la verità ci siamo presi un sole stamattina, ma sole però mi perpa. Sono arrivati questi due anziani. Male. Ti parlo di anziani ottantenni, no, anziani di chi si sui 60 anni. Anziani ottantenni, brutti. Ho visto questo qua che si era tolto prima la maglietta, la manica in gossi, la buia, il pantalone, ed era in costume sotto, però non aveva voglia di farsi il bagno, questo si buia, la buffetta in capo e comincia a nudare. Ma se ci non lo vedevamo più. Ma penso che fossero tedeschi, non è possibile, non è roba italiana. Io mi ricordo che davvero siamo andati nel Trentino con mia moglie e la famiglia e siamo andati in questo albergo dove c'è la piscina. In pieno inverno questo qua, cazzo, questa famiglia di tedeschi andava in piscina a farsi il bagno, la mattina alle 7. Sai cosa c'è? Che lì è un bel freddo, confronto a qua, sembra di essere in estate per loro, c'è un bel freddo in Germania, infatti hanno tutti sedili con le cose di pecora perché c'è freddo. Mi ha detto questo amico mio che erano emigrati in Germania, tutta la famiglia, no? Ha detto che una volta ha fatto una grandinata, gli ha fatto la macchina, toccava un buglione, tutta, sembrava mitragliata, ha detto. E è riuscito tra l'altro a mettersi sotto una galleria, se no l'avrebbe rovinata ancora di più, c'è il BMW, gliel'ha fatta tutta a buca. Dice che esce, c'è il sagrato nei bani di Cantone. Poi dice che ti si congela liquido refrigerante, ci vuole un liquido refrigerante speciale, se diventi quello normale si congela. Sì, un tipo di olio particolare, lo so se ci vuole, se no si congela anche quello. E c'è un freddo, dice che guarda, la mattina c'è il ghiaccio in terra. sei quasi scemo. Però prenderle, se prendi il pezzo grosso, è una bellezza, cioè, è una soddisfazione, uno che c'ha la passione, se uno non ce l'ha pure la pensa così, ma è come tenere un cazzatore, non fai prima la seconda con parassia, invece di andare a cazzare e pinirti chi si dirà, ti porto d'armi, di chiso, di tasso, rinnovarlo, mi pare con i soldi 71 euro di porto d'armi. Ma ci sono i partiti, purtroppo ne fanno un culto di questa cosa, capito? Ti proprio fissata, devi andare con la compagnia, tipo un amico nostro, quello che siamo andati a trovare da poco, Furi. Quello lì esce sempre con la compagnia, domenica sono andati, non ho preso nulla, in più si è fatto male perché è caduto da muretto e si è fratturato la gamba. Ma se tu compri carne buona e roba buona li spendi i soldi, se cominci a comprare una Ital canna costa sulle 400 euro con la canna, un buon mulinello ti viene 130 160 euro, dipende dal mulinello che prendi, poi devi prendere tutti i piumi, ami, girelle, risi, tutte le altre attrezzature che ci vogliono, forbici, cosa ti posso dire, elettri, ricambio, tutte queste cose qua, porta canna, non so che all'inizio spegni un bel. Anche a camminare, trovi funghi, trovi lumache, se tu magari vai a caccia e non trovi, come si dice, non trovi selvaggina, ti fai funghi, ti fai le lumache, ti fai gli asparagi, capito? Perché cammini in campagna, quello che trovi prendi. E molte volte i cacciatori fanno in campagna di mio zio, se tu ci sono io, andate fulari. Di Bijan Beghisso, sempre, mamma mia, alle 4 mi si alza a prendere a cinghiali, domenica scorsa ne hanno preso uno bello grosso, ma questa domenica non hanno pigliato nulla, sono rimasti a secco, asciutti, in più ha perso la Lazio, ha incazzato Nido, questo del dirmi la Lazio, non so quanto abbia preso, penso che ha preso perché me l'hai tu. Che l'anziano è sfagazzato, capito? La dubbia della Lazio si incazza come un Buddha. Se tu fai cammina su, c'è tutte le bandiere della Lazio, gli striscioni, Forza Lazio, sei un po' che di cose. Tanto ti dico, non mangerò per loro se perdo. I vani vignoli che cosa fanno? No, poi dopo 4-4-1 siete dei grocchi, dice di dare, ci affanno ne avevo, E anche da noi c'è stato tanto lontano il magazzino, il mio collega comincia a sfottere quando entrano a prendere quelli della squadra avversaria, avevamo fatto 4-1, 4-1. E poi da come si capita nei pari di Giocanietti, compreso. Quello proprio non lo concepisco, bisogna essere sportivi, se si vinca o si perde bisogna essere sportivi, o no? Ma sì che Cristian sia bene negati fritti, o è a Cusenzi, Cristian ci sì. E dipende di quale? Allora, un negro ci vorrebbe, lo dà cura. l'NC non mi ha fatto niente, adesso proviamo le supporte, cosa vuoi ti dite? Buonas noches, dai, alle prossime.